Visto che comunque abbiamo parlato di ambiente, di quello che è la questione ambientale, quello che volevo chiedere sia a Roberto e volendo indirizzare la domanda anche alla sottosegretaria Fontana, quale secondo voi è lo step ulteriore che dobbiamo fare sia come comunicazione sia come cittadini per davvero avere una sensibilità completa e cominciare a non solo a fare queste iniziative che sono importanti, ma anche cambiare quella che è la mentalità. Poi, seconda cosa, visto che comunque noi facciamo parte di una radio, volevo chiedere a Roberto se ha una playlist particolare per il suo allenamento e per quella che sarà la corsa. Beh, allora inizio dalla seconda. Io sono un po' anomalo nel mondo dei runner perché io quando mi alleno e corro, anche su lunghe distanze, sto con me stesso e ascolto le voci della natura, gli uccelli, gli animali, le piante, il fruscio del vento. Amo la musica, la adoro, l'ascolto a casa, no? Normalmente, quindi ripeto, sono un po' anomalo da questo punto di vista. Amo tutta la musica, quindi tendenzialmente preferisco quella italiana. Invece, poi lascio ovviamente, alzo la palla all'onorevole Fontana. Io vi mando un messaggio ed è personale: più che fare è non essere disperati. Io la sensazione che ho tante volte quando si parla di ambiente è che la gente sia disperata, e cioè che il suo gesto non serva a nulla. Invece no, è esattamente il contrario. Ogni nostro gesto è strautile nel suo piccolo. C'è un aforisma che io adoro, che è: ogni fiocco di neve in una valanga non si sente responsabile, di Burns, un grande comico americano. Ebbè, io penso esattamente il contrario. Noi dobbiamo sentirci responsabili in ogni nostro piccolissimo gesto. Possibilmente, per come viene naturale a me, farlo col sorriso. Tutto quello che viene dopo è positivo, è utile, serve. Questo non vuol dire essere disincantati. Tutt'altro, in questo momento stiamo sforando ogni record di CO2 in atmosfera, abbiamo superato i 421 parti per milione, ci sono grandi problemi. Dobbiamo affrontarli, ma con la consapevolezza che noi siamo un pezzo della soluzione. Questa è un po' la mia ricetta. Sì. Grazie mille e ringrazio anche per la domanda perché magari mi dà la possibilità di ripetere un concetto che prima l'ho detto forse troppo velocemente. Il fatto che noi dobbiamo dare come istituzioni sempre più spinti per far diventare cittadini sempre più sentinelle attive sui territori, no? E quindi già ci sono dei progetti con l'ISPRA, la Citizen Science, quindi il cittadino che diventa protagonista di determinati progetti, ma che questi possono andare dal riscontro dell'impatto d'origine su un determinato territorio, che io dico sempre, sono i cittadini che se ne accorgono che vivono determinati territori, oppure ad altri tipi di progetti, come ad esempio sulla prevenzione dei rifiuti. Quindi ovviamente la collaborazione e il filo unico che lega poi la cittadinanza attiva e le istituzioni sono strumenti concreti che però da parte nostra dobbiamo prenderci l'impegno di farne sempre di più e permettere poi alle associazioni, agli enti locali, quindi anche ai comuni, di rendere poi il cittadino veramente protagonista della vita sociale, quindi della vita comunale e non solo, quindi, ed essere protagonista in tutti i possibili progetti, le possibili situazioni che si possono creare. Quindi questo sicuramente potrebbe essere un approccio. Ci sono già esempi, ci sono tantissimi progetti sperimentali, lo stesso con l'applicazione del cellulare in cui il cittadino da casa può, oppure dal luogo dove sta, veramente con un pulsante può dire determinate tematiche, dagli odori, dalle sostanze d'origine ad altro. Quindi questo potrebbe essere un approccio.